Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Limiti di velocità non rispettati, sistemi di controllo insufficienti, le carenze sulle strade più a rischio, si riapre il dibattito dopo la strage sulla Cimpello Sequals. Si era sottratto agli arresti domiciliari per partecipare al veglione di Capodanno il 34enne dominicano firmato per l'omicidio a Leghetto Alcione. L'indagine prosegue per scoprire chi ne ha favorito la fuga. Sarà riesumato il corpo di Liliana Resinovic, poco fa l'annuncio del procuratore capo di Trieste. Electrolux, tra due settimane il tavolo nazionale sugli esuberi, incertezza per centinaia di lavoratori della Varzila di San Dorligo, ma sono molte decine le aziende del settore industriale in sofferenza. Case di riposo aumentano le rette, il caso della Quiete di Udine, intervista con il presidente. Cresce il numero degli ambulatori sperimentali di assistenza primaria, aperte le strutture di Fiume Veneto e Fontana Fredda. Ora sono 10 quelle del territorio dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. La televisione italiana compie 70 anni, parla il regista della prima storica trasmissione in diretta, Vito Molinari. Le 12, 31 minuti, 30 secondi, buona giornata ancora da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Ancora in primo piano la strage di ieri sulla Cimpello Sequals, 3 vittime nell'incidente che ha coinvolto un'ambulanza della Croce Rossa, un camion e un SUV, strada che invita a correre, quella sulla quale è avvenuto lo schianto, e ora è ripartito il dibattito su come limitare i rischi. A Pinzano il tagliamento sarà istituito il lutto cittadino il giorno delle esequie di Graziella Mander, la volontaria della Croce Rossa deceduta nel tragico incidente di ieri. Ad annunciarlo, visibilmente commosso, il sindaco Emiliano De Biase. Intanto l'esercizio pubblico di via Roma 93 è chiuso e la comunità di Valeriano, frazione di Pinzano al Tagliamento, è sconvolta, attonita per quello che è successo a Graziella. Insieme al marito gestiva il bar tabacchi della via principale del paese, dichiarato locale storico. Volontaria di lunga data in Croce Rossa e molto conosciuta nella comunità. Intanto proseguono le indagini da parte degli inquirenti per capire l'esatta dinamica, la velocità e le cause dell'impatto che ha provocato 3 morti. In serata, dopo la pulizia del manto stradale, è stata ripresa la circolazione. Intanto si accende la polemica sulla strada che ha causato diversi incidenti. L'assessore regionale Cristina Amirante parla di trasformare questa arteria in una superstrada. Pinzano al Tagliamento, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Le indagini sull'omicidio di Capodanno a Laghetto Alcione, alla periferia di Udine. Ieri era stato sentito a lungo il 34enne dominicano fermato a Tarvisio. Questa mattina il punto in una conferenza stampa da parte degli inquirenti. Un'evasione dal regime di detenzione domiciliare per partecipare al veglione di Capodanno a Laghetto Alcione e dopo il fendente fatale il tentativo di far perdere le proprie tracce con l'aiuto di più persone e mezzi. Delineati in conferenza stampa al Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine i contorni dell'omicidio di Capodanno allo stato attuale delle indagini. In carcere accusato del delitto Anderson Vasquez di Pres, 34enne dominicano, operaio come la vittima Ezechiele Mendoza Gutierrez di 3 anni più giovane. L'indagato, per il quale la procura ha richiesto la conferma della misura cautelare al vaglio del GIP, ha fornito ieri in un lungo interrogatorio la sua versione dei fatti. Un paio di alterchi verbali nel corso della festa tra i due per futili motivi legati probabilmente a questioni di gelosia, non escluso uno stato di alterazione dovuto all'uso di alcol o droghe. Poi, secondo la ricostruzione, lo scontro nella veranda del locale, Vasquez di Pres colpisce Ezechiele Mendoza Gutierrez con un calice di vetro che a suo dire si frantuma con l'impatto, causando la ferita poi risultata fatale. Quindi la fuga, si libera del cellulare non ancora ritrovato e raggiunge Tarvisio con il supporto di più persone e più automezzi. Massimo Lia, procuratore della Repubblica di Udine. Capire se è stato aiutato da qualcuno, ma aiutato consapevolmente rispetto al delitto commesso, perché potrebbe anche non essere così. Allo stato non ci sono elementi per poter contestare la premeditazione. A Tarvisio Vasquez di Pres arriva coi vestiti ancora sporchi di sangue e tagli sulla mano. La sorella gli suggerisce di consegnarsi. I carabinieri del comando locale lo trovano in uno degli hotel in cui lavorano la madre e la sorella. Mauro Bonometi, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Udine. L'esito rapido e positivo dell'indagine è il risultato della sinergia tra tutti i comandi dell'arma in provincia, e che in sintonia con il pubblico ministero ha consentito di delineare il complesso quadro indiziario. Sicuramente l'indagine non si ferma con l'arresto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. A 2 anni dal ritrovamento del cadavere, la Procura della Repubblica di Trieste ha disposto la riesumazione della salma di Liliana Resinovic. A comunicarlo in una nota poco fa il procuratore capo Antonio De Nicolo. A disporre la riesumazione è sostituto procuratore Maddalena Chergia, titolare del procedimento. Si tratta di un accertamento tecnico non ripetibile affidato a un collegio di consulenti. Il PM ha stabilito per la fine del mese la convocazione degli esperti chiamati a svolgere le operazioni. La riesumazione del corpo di Liliana Resinovic avverrà subito dopo l'affidamento dell'incarico. E ora siamo al mondo del lavoro. Le crisi Wärtsilä ed Electrolux continuano a tenere in apprensione centinaia di famiglie, ma in regione sono più di 120 le realtà produttive in sofferenza nel settore industriale. Wärtsilä ed Electrolux, due multinazionali per due grandi incertezze occupazionali. La fabbrica di grandi motori di San Dorligo della Valle è il caso più eclatante, una storia che va avanti ormai da quasi un anno e mezzo, da quando, nel luglio del 2022, la proprietà dichiarò di voler dismettere i reparti produttivi mantenendo però ricerca e sviluppo e assistenza clienti. Ultima puntata e ultima doccia fredda il 28 dicembre. Un incontro telematico con l'azienda si è concluso con un nulla di fatto e con l'accusa alla proprietà, da parte di regione e sindacati, di aver messo sul piatto nuove inaccettabili richieste, come quella di disporre di alcuni macchinari del sito ritenuti non strategici per un'eventuale azienda subentrante, o quella di una deroga al contratto nazionale per diminuire il numero delle mensilità da pagare ai dipendenti licenziati. Sullo sfondo, manifestazioni di interesse per il sito, ma la società è chiamata ad accompagnare il processo di reindustrializzazione. Nuovo incontro previsto il 9 di gennaio. Per quanto riguarda Electrolux, c'è da fare i conti con il piano globale di ridimensionamento dovuto al calo del mercato europeo, che prevede 3.000 esuberi in tutto il mondo, concentrati soprattutto nel personale impiegatizio, con ricaduta sull'Italia ancora da quantificare. In questo caso il tavolo nazionale è fissato per il 18 gennaio. A Porcia la produzione 2023 è rimasta poco al di sopra delle 600.000 lavatrici, molte meno di quanto fissato dal budget. Si torna in fabbrica l'8 gennaio con turni non da 8 ma da 6 ore. E così quasi sicuramente per tutto il mese. Le crisi delle due aziende portano con sé i problemi del loro indotto e complicano un quadro che, secondo l'Osservatorio Industria della CISL, è fatto di 123 realtà grandi e piccole in situazione di difficoltà. Il settore più penalizzato è quello della metalmeccanica, il territorio più in sofferenza, il pordenonese. Sul quadro economico hanno ormai smesso di pesare i costi energetici. Il fattore principale di crisi, secondo la stessa fonte, è la carenza di commesse. Andrea Verdaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. E il nodo occupazionale sarà tra i temi che nel telegiornale regionale delle 14 sarà affrontato con Pierluigi Zammò, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, ospite in diretta nel nostro studio di Udine. I temi della sanità, altri aumenti in vista per le rette delle case di riposo. Il caso della Quiete di Udine, che ha annunciato un rincare fino a 5,50 euro al giorno. Si era parlato di trasporto pubblico, assicurazioni e ricettività, ma ora si potrebbe aggiungere alla lista degli aumenti del 2024 anche quello delle rette delle aziende di servizi alla persona. È il caso dell'udinese La Quiete, che a ridosso del Capodanno ha comunicato la necessità di un aumento di 5,50 euro al giorno, a fronte di 120 euro più al mese, a seconda del reddito dell'assistito e dei servizi erogati. Spiega il presidente della Quiete, Alberto Bertossi. Il motivo dell'aumento così rilevante di 5,50 euro è dovuto a una dinamica normativa sia nazionale che regionale. La normativa nazionale riguarda l'aumento dei salari del personale del comparto pubblico, che nel caso della struttura friulana è applicato a 4 medici interni e al direttore sanitario. Cospicua la spesa. Un aumento, dicevo, che abbiamo stimato in circa 170-180 mila euro rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Altro incremento, quello dovuto all'imposta regionale sulle attività produttive IRAP anche per le aziende di servizi alla persona calcolata sui dipendenti, che La Quiete preferisce assumere rispetto al personale in esternalizzazione. il moltiplicatore IRAP, che è l'8,5%, comporta per noi un aumento dell'imposta di circa 400.000 euro all'anno. A ciò si sommano gli aumenti inflazionistici che in media, secondo Banca d'Italia, sono stati del 6% nello scorso anno. Per la realtà udinese non si tratta quindi di coprire buchi di gestione, quanto di far fronte a nuove voci e nuovi importi. Aumenti che in passato hanno già coinvolto diverse altre strutture, come attesta Alessandro Santoianni, vicepresidente regionale Unione Iniziative Assistenza Sociale UNEBA, con ricari del 2% in media nel pordenonese, anche a fronte della crescita dei prezzi delle utenze e della spesa ancora in essere per i dispositivi di protezione individuale anti-Covid, come mascherine e igienizzanti. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Basta con gli interventi tampone per risolvere la situazione di crisi dei pronto soccorso, serve un piano di investimento straordinario. Lo sostiene Michele Piga, segretario generale della CGIL di Trieste, in una nota in cui chiede ad Asugi e alla Regione una chiara inversione di rotta rispetto alle politiche attuate negli ultimi anni che stanno accelerando, continua, il declino della sanità pubblica in provincia. L'intasamento dei pronto soccorso, spiega Piga, è solo la punta dell'iceberg, un collo di bottiglia che rivela l'incapacità della medicina territoriale e del sistema ospedaliero di dare una risposta alla domanda di salute delle persone. Anziché affidarsi a correttivi temporanei, serve potenziare la rete dei distretti, tornare a rendere attrattiva la medicina di base e di emergenza, fermare l'esodo di professionisti verso il privato, incentivare il personale e migliorare le condizioni di lavoro nei reparti di emergenza, ha concluso. Il comune di Trieste è stato scelto per partecipare all'indagine coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e promossa dal Ministero della Salute sui fattori di rischio delle malattie non trasmissibili. Lo studio servirà a individuare gli ambiti in cui è necessario intervenire con prevenzione, diagnosi e assistenza, anche valutando la prevalenza di alcune condizioni a rischio come ipertensione arteriosa, obesità, ipercolesterolemia, diabete, eccetera. A partire da gennaio, uomini e donne di età compresa tra i 35 e i 74 anni, selezionati casualmente tra i residenti del comune di Trieste, riceveranno l'invito a partecipare all'indagine attraverso una lettera postale. Le persone che accetteranno saranno sottoposte gratuitamente ad esami, misurazione della pressione, del peso, dell'altezza, l'esecuzione di un elettrocardiogramma, prelievo del sangue, l'analisi delle urine e alla raccolta di informazioni sugli stili di vita attraverso questionari presso l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Invito i cittadini selezionati ad aderire, ha dichiarato il sindaco di Piazza, ricordando l'importanza dell'indagine ai fini della prevenzione e della ricerca. Due nuovi ASAP aperti con il nuovo anno a Fiume Veneto e a Fontana Fredda portano il totale degli ambulatori sperimentali di assistenza primaria a 10 sul territorio dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, a cui fanno capo 13.000 pazienti rimasti privi del medico di base. Una quarantina il totale in regione e altri dovranno probabilmente essere costituiti in vista dei prossimi pensionamenti, ma si tratta di soluzioni temporanee ed è indispensabile guardare oltre. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici, Guido Lucchini. Qui nell'ASFO, nella provincia di Pordenone, siamo ad un totale di 10 ASAP. Questi ASAP, oggi come oggi, riescono a dare assistenza a circa 13.000 cittadini, giovani e meno giovani. Riescono a dare risposte adeguate? Allora, finora, da quello che ho potuto vedere, è lo strumento che può dare la risposta pronta al cittadino. Per l'obiettivo che ci proponiamo, sono formati da giovani medici, solitamente un ASAP è composto da 3 a 4 medici che si turnano tra loro e riescono a dare le azioni sociosanitarie necessarie per il cittadino. Però una risposta che è una risposta a breve termine in sostanza, che il futuro qual è? Ma certamente una risposta a breve termine, perché come dice la parola stessa dell'ASAP, è un ambulatorio sperimentale, non è definitivo. L'obiettivo finale sarebbe che questi giovani medici un giorno possano scegliersi con un incarico intanto provvisorio e dopo entrare in maniera ufficiale nel percorso della medicina generale. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal 1 gennaio è attivo l'assegno di inclusione, l'ADI, che sostituisce il vecchio reddito di cittadinanza. L'ADI è affiancato da un'altra misura, il supporto per la formazione e il lavoro, che in Friuli Venezia Giulia è già attivo dallo scorso settembre e si rivolge a cittadini tra i 18 e i 59 anni. Se ne è parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Il reddito di cittadinanza è stato definitivamente abrogato. Dal 1 gennaio è stato sostituito dall'assegno di inclusione, l'ADI. La procedura per richiedere la nuova misura è aperta dal 18 dicembre 2023 ed in Friuli Venezia Giulia sono già oltre 2.000 le richieste. Il direttore regionale dell'INPS Friuli Venezia Giulia, Mauro Saviano. Si rivolge a quattro categorie di cittadini che sono i soggetti ultrasessantenni, i soggetti con componente inabile, il soggetto con minore e i soggetti appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate. La grande novità è rappresentata dalla creazione della piattaforma informatica SISL che mette in contatto le pubbliche amministrazioni che cominciano a comunicare tra loro. Tramite il SISL non chiediamo ai cittadini informazioni, ma dichiarazioni, perché le informazioni sono già contenute attraverso questa piattaforma che mette in correlazione e in comunicazione varie pubbliche amministrazioni che quindi contribuiscono in qualche modo poi questo in realtà nel supporto formazione e lavoro a creare il marketplace dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'ADI non assorbe più l'assegno unico. I cittadini devono fare due cose molto importanti. Devono presentare la domanda del PAD, che è il patto di attivazione digitale che fa decorrere la misura dell'ADI, dell'assegno di inclusione, e poi devono presentare la domanda di assegno unico. Può capitare che la somma di assegno unico più ADI, poi dipende da tanti fattori un po' tecnici determinati dalla cosiddetta scala di equivalenza del nucleo, determini un importo maggiorato per le famiglie anche rispetto al semplice reddito di cittadinanza. Trieste, Vaciucci, GR, Friuli Venezia Giulia. Crisi dell'editoria. In quattro anni sono state chiuse in tutta Italia più di 2.700 edicole, di cui 2.327 erano imprese individuali. Lo rivela un'elaborazione realizzata da Union Camere e Infocamere sui dati del registro delle imprese. A livello nazionale la media è di un calo del 16%, con variazioni che toccano cifre più elevate, ed è il caso di Trieste, che registra un meno 31,1%. Significa che in città sono sparite poco meno di un terzo di tutte le edicole. 70 anni fa cominciavano le trasmissioni televisive in Italia tra musica, divulgazione culturale e sport. Ecco come andò quella prima storica giornata, con la messa in onda dagli avveniristici per allora studi della RAI a Milano. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Era il 3 gennaio 1954. Ad annunciare da Milano la nascita della TV in Italia c'era Fulvia Colombo. Signore e signori, buon divertimento. Regista di quella prima trasmissione, un 24enne, si chiamava Vito Molinari. Era una trasmissione divisa in tre parti. La prima parte partiva da uno studio allestito dalla RAI di fronte al palazzo di Corso Sempione, in un piccolo edificio che era di proprietà di una ditta di cravatte di Chicchini. La RAI l'aveva affittato, ci aveva fatto uno studio. Mentre avveniva il filmato, io attraversavo di corsa la strada, entravo nel palazzo della RAI, spintonavo gli ospiti che stavano arrivando, salivo in regia in tempo per far entrare le autorità che facevano il discorso per inaugurare il nuovo studio televisivo. A mezzogiorno era tutto finito. Il TV3 venne definito il più moderno studio d'Europa. La prima giornata di programmazione era domenica, proseguiva poi con musica leggera e classica, divulgazione culturale, informazione con il primo TG, cinema e teatro. Ultimo programma, sempre da Milano, la domenica sportiva. In chiusura le note di un compositore milanese, Renato Lupi, autore del brano Armonie del pianeta Saturno. La fine delle trasmissioni. Sono le 12 e quasi 50 minuti, diamo uno sguardo al tempo, nubi basse su pianura e costa, più sole in montagna, queste le temperature registrate poco fa, a Trieste 10 gradi, a Udine 8 e a Gorizia a Pordenone 8 e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo 7, a Tarvisio 5, ancora in montagna meno 2 sul Monte Lussari. Per quanto riguarda le previsioni, avremo nel pomeriggio ancora foschie, qualche banco di nebbia tra bassa pianura e costa, qualche sprazzo di sole sui monti. E ora gli spettacoli. Il cantante attore Simone Cristicchi porta stasera a Lignano Sabbia d'Oro il suo musical intitolato Franciscus, il folle che parlava agli uccelli. Sul palco, da solo, l'artista romano racconta la vicenda storica e spirituale di San Francesco e solleva temi e domande rivolti alla società di oggi. Lo spettacolo è al Cine City dalle 20.45. E arriva a Trieste al Politeama Rossetti un altro omaggio musicale, questa volta a Michael Jackson, un omaggio al re del pop costruito con coreografie, effetti, costumi e soprattutto con Miguel Concha, ballerino e sosia di Michael Jackson, l'inizio alle 20.30. Lo sport è sci alpino, primi allenamenti questa mattina sullo Zoncolan per la squadra azzurra femminile di Coppa del Mondo che si sta preparando la doppia di tappa di Kranjska Gora, un gigante e uno slalom in programma sabato e domenica prossimi. Sulla pista 1 si sono allenate Federica Brignone, attualmente seconda nella graduatoria generale di Coppa, alle spalle della statunitense Schifrin e Marta Bassino, ma anche la tarvisiana Lara Della Mea, fresca reduce dal suo miglior risultato in carriera tra le porte larghe a Linz. Le azzurre hanno partecipato poi al benvenuto ufficiale organizzato dalla regione, hanno brevemente incontrato tifosi e appassionati. Anche la nazionale svedese si allena in questi giorni sullo Zoncolan. E ora la corsa della Bora, si sta disputando la seconda tappa dell'Ipertrail da Lubiana a Porto Piccolo in provincia di Trieste, dove la gara più dura, 164 km totali, si concluderà il giorno dell'Epifania, quando si disputeranno altre 5 competizioni su diverse distanze. Ieri la prima frazione di oltre 49 chilometri ha portato la cinquantina di concorrenti dalla capitale slovena alla Vrhnika. Successi parziali per Alice Modignani Fasoli, piemontese specialista di ultramaratone, per il 49enne imolese Emanuele Galanti, che ha al suo attivo tra l'altro la Ice Ultra 2022, 230 chilometri invernali nella Lapponia svedese. La tappa di oggi porterà i partecipanti a Javornik, in un rifugio a circa 1100 metri di quota, sempre in Slovenia. La corsa della Bora è organizzata dall'associazione sportiva Sentiero 1 di Trieste. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Vassia Krismancic. 12.52 minuti 30 secondi, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'attenzione, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.